vorremmo sottolineare che nei cambiamenti può capitare, no, di avere un momento iniziale in cui si ha paura, ci si preoccupa, o diciamo non è la testa a parlare ma è la pancia. Può capitare ed è un qualcosa di umano e che comprendiamo, però siamo davanti a una svolta che per la città sarà epocale. Siamo davanti a una svolta che ha l'obiettivo di portare i morti sulle strade a zero, di migliorare la qualità del nostro vivere in strada, e quindi esortiamo tutti, l'amministrazione in prima persona, a leggere la realtà che in questo momento sta vivendo questa città con questa lente. Non si può giudicare un provvedimento al primo, al secondo giorno, quando abbiamo davanti non una corsa di 100 metri ma una lunga maratona che ci porterà poi ad avere dei risultati più avanti, quando saranno realizzate delle opere infrastrutturali, quando verranno controllati, cominceranno ad essere controllati i limiti, quando succederanno tutta una serie di cose che sono previste a piano, e la lettera del sindaco lo dice, potremo fare un bilancio, come è successo con altre opere che sono state attuate in questa città, a partire dalla chiusura pedonale di Via D'Azeglio tantissimi anni fa, la chiusura del centro nel fine settimana, la tangenziale delle biciclette. Sono tutti provvedimenti che hanno generato inizialmente lo stupore e anche tanto chiacchiericcio, ma poi alla fine se ne è compreso il vantaggio e tutti poi ne abbiamo beneficiato. Ora ci sarà un periodo fino a gennaio, diciamo così, un po' sperimentale. Quali sono gli interventi necessari anche per, come dire, agevolare i bolognesi per arrivare a questo cambiamento in modo definitivo? E gli interventi sono tanti, sono quelli che aiutano chi guida a rispettare il limite senza dover per forza controllare il tachimetro. Quindi si tratta di dell'adeguamento dell'assetto stradale, lasciando più spazio a chi cammina ed è in bicicletta, quindi vuol dire un restringimento della strada che porti a una guida, no, della velocità. E abbiamo visto l'esempio, non so, per esempio di Via Azzurra, dove ci sono stati tanti incidenti. Questa via poi è stata adeguata come? Restringendo l'asse stradale, rialzando i dossi, facendo in modo che, diciamo, la velocità sia un risultato di un'azione fisica e fa sì che chi guida è facilitato ad andare a questa velocità. Detto che comunque noi già oggi, diciamo, noi quello che vediamo limare, no, con questi interventi sono i picchi di velocità, che sono quelli che possono risultare mortali in caso di scontro con persone lungo la strada o con altri mezzi. Oggi però già stiamo andando a una velocità che a seconda se siamo in ora di punta o facendo una media lungo tutta la giornata, si aggira attorno tra i 17 e i 22 km all'ora, quindi non ci cambierà la vita no, avere questi interventi che ci aiuteranno a rispettare questa velocità, ma miglioreranno tantissimo la gradevolezza e la bellezza delle nostre strade, perché in città è l'80% del territorio è adibita a trasporto a strada, no? E quindi cambiare il modo di vivere la strada cambierà tantissimo la nostra vita, il nostro modo di interagire con lo spazio urbano. Insomma, una guida più fluida e scorrevole e meno a fisarmonica, come è stato detto. Esatto, e proprio questo effetto, no, di ridurre questa guida fisarmonica riduce il consumo degli pneumatici e riduce il consumo di carburante, che è quello che poi porta a una riduzione dell'inquinamento atmosferico. Quindi un invito a tutti, appunto in questo periodo di cambiamento dove tutti ne parlano di questa cosa, un invito è quello di documentarsi sulle cose che vengono dette, perché no, uno dei falsi miti è andiamo a 30 allora inquiniamo di più. No, questo è il primo falso mito da sfatare, ce ne sono tanti altri. Il secondo, ci mettiamo più tempo, l'abbiamo già detto di no, cioè noi questa cosa viene fatta, e lo dice chiaramente anche la lettera del sindaco, lo dice il sito che invito a visitare, che è Bologna 30.it, c'è la risposta a tutta una serie di domande che sono quelle di cui si parlano tutti i giorni, no? In tutti i contesti, in questo periodo in città, perché è una grande novità. Quindi mi invito a quello proprio di documentarsi, di capire il perché di questo provvedimento, evitando, no, di lasciarci andare, no, a divagazioni che non sarebbero utili. Secondo i test effettuati da alcune testate locali ieri nella prima giornata lavorativa con i nuovi limiti, sono in pochi ancora a rispettarlo, tra l'altro neanche autobus e taxi. Questa cosa vi preoccupa o è normale? Non mi sembra un dato attendibile, cioè, se uno vuol fare una statistica, le statistiche vanno fatte con metodo e in una certa maniera, no? Non è che io adesso scendo sotto casa mia in via Zanardi e poi controllo e guardo, cioè, che tipo di statistica è, cioè, nel senso, rimaniamo saldi su sul piano razionale. Usiamo dati e fatti per parlare e non delle osservazioni casuali prese così, cioè un tanto al chilo, perché siamo poi al secondo giorno, sappiamo che abbiamo una strada lunga da percorrere, no? Con tutta una serie di interventi pianificati, con un cambio che deve essere innanzitutto culturale, ma la cultura non si fa in 2 minuti, no? E quindi insomma diamo il tempo a questo provvedimento di sedimentare e di fare il suo corso.